Ma io buttassi a fiume tra la là, che fa sta vita qua? Ma io buttassi a fiume tra la là, che Anna lavora. Bella Roma, per chi c'ha i soldi, padroni di casa sempre più ingordi, fammi i buffi con carta girone per potesse pagare la pigione. Siamo stressati, accatastati, compressi, sfruttati, sottopagati. I tempi di mio nonno mi sa che sono tornati. Ma almeno mio nonno c'aveva l'osteria, se beveva la foglietta il dolore andava via. I soldi non ce l'aveva, ma stava in compagnia. Dopo per San Vittorio poi c'avevano un talento, quando che il vino era buono se suonava a cor contento. Meglio buttassi a fiume tra la là, che fa sta vita qua. Meglio buttassi a fiume tra la là, che Anna lavora. Arriva le donnette che sono sempre perfette, si attaccano ad un uomo come fossero cagnette. Non hanno... E questa è la sigla di Femministenzia, della trasmissione che Femministenzia Castelli Romani tiene ogni secondo e quarto martedì del mese qui a Radio Default. Tutti e tutte potrete riconoscerla, è la splendida voce di Marta Neri. Via misurare è primavera, ma insomma ragazzette dammi un po' da fascia, avemo culo e tette e testa per pensare, per voler aspetta vedi la pezza, ecco qua, testa per pensare, scusate, che puro li difetti sono da valorizzare, altro che quelle della pubblicità, ci piace far l'amore e puro le magna, altro che chiesa, marito e santità, volemo una vita di curiosità e questa è la strada per la libertà. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. E questa è Lauryn Hill con Take My Eyes Off of You. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I want to. Quella che ascolterete nelle prossime ore è una selezione musicale a cura delle compagne della collettiva Femministenzia Castelli Romani. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much, at long last love has arrived. Per i presenti e le presenti ricordiamo che l'aperitivo è a sottoscrizione libera e non. Okay. Oh, pretty baby, don't queste sono delle prove tecniche di messa in onda tra la regia e la sala dove è in corso l'aperitivo. Skies could fall, not even if my boss should call. The world, it seems so very small, 'cause nothing even matters at all. Seems nothing even matters. Seems nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing even matters at all. Your love makes me feel 10 feet tall. Without it I go through withdrawal. 'Cause nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing even matters at all. Nothing even matters. Nothing even matters. These buildings could drift out to sea. Some natural catastrophe. Still there's no place I'd rather be. 'Cause nothing even matters to me. See, nothing even matters. See, nothing even matters to me. Nothing even matters. Nothing even matters. You're part of my identity. I sometimes have a tendency to look at you religiously, babe. 'Cause nothing even matters to me. Nothing even matters. Nothing even matters to me. Sit it down, baby, baby. Oh. Now you won't find me at no store. I have no time. Manicures with you, it's never either. 'Cause nothing even matters no more. See nothing, it don't matter. See nothing even matters no more. Nothing even matters. Nothing even matters. Sguardi degenerati, corpi di donne o presunte tali. Siamo un collettivo di donne e abbiamo sentito l'esigenza di riflettere sul nostro corpo e sull'immagine che del nostro corpo ci rimandano i canoni imposti dai media e più in generale dalla società. Noi non ci riconosciamo in questa immagine e ci proponiamo, nelle nostre vite e nella nostra riflessione politica, di sovvertire l'immaginario corrente imposto sui corpi e il ruolo da sempre associato al nostro genere. La bellezza assume mille forme diverse ed è rintracciabile anche e soprattutto nell'imperfezione. La società ci vuole caste, operose, sane e belle. Noi rivendichiamo il diritto di non essere così. Vogliamo essere libere di essere come ci pare, sfidando l'ideale corrente di sanità mentale e fisica. Noi rivendichiamo il diritto di non essere etichettate, di andare oltre il nostro stesso genere, di essere e di rappresentarci come vogliamo. Per questi motivi rivendichiamo il ruolo centrale che la lotta per la liberazione della donna deve avere per la costruzione di una società alternativa, anticapitalista e antifascista, in un momento come quello attuale, nel quale gli attacchi ai diritti delle donne diventano sempre più frontali. Proposte di abolizione della legge 194, smantellamento dei consultori, marcia per la vita, femminicidio, episodi di sessismo e omofobia. Non siamo fotografe né modelle professioniste, ma ci siamo divertite a mettere in gioco il nostro modo di essere donne e a scardinare ruoli, immaginario e aspettative di genere. Speriamo sia l'inizio di un percorso tramite il quale tutte e tutti possiamo arrivare a vivere liberamente il nostro corpo, il nostro genere e la nostra sessualità. Stay rebel, stay queer, smash the system. Oh. nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing but you, you, you, nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing but you, nothing. Get married to Jew, let's swing. mama, swing it on home. Big mama, you're gonna marry him someday. We don't plant no crop, not even tomatoes. All they plant down in my hometown is candy and potatoes. Swing it on home. Big mama, swing it on home. Big mama, run on home. Big mama, they're gonna marry you someday. Now, hey, everybody, I hope you like our plan. When you see Betty Guy, this is what he said. Run on home. Big mama, swing it on home. Big mama, run on home. Big mama, they're gonna marry you someday. Now, swing it on home. Big mama, run on home. Big mama, swing it on home. Qualvolta si discute dell'orgasmo e della frigidità femminili, viene fatta una falsa distinzione tra l'orgasmo vaginale e quello clitorideo. La frigidità è stata definita generalmente dagli uomini come l'incapacità delle donne di avere orgasmi vaginali. In effetti la vagina non è un'area altamente sensibile e non è congegnata per raggiungere l'orgasmo. È la clitoride il centro della sensibilità sessuale e l'equivalente femminile del pene. Io penso che questo spieghi molte cose. Innanzitutto il fatto che la cosiddetta percentuale di frigidità fra le donne sia straordinariamente alta. Piuttosto che ricondurre la frigidità femminile alle false tesi sull'anatomia della donna, i nostri esperti hanno dichiarato la frigidità un problema psicologico delle donne. Quelle donne che se ne lamentavano venivano inviate dagli psichiatri in modo che potessero scoprire il loro problema, diagnosticato generalmente come incapacità di conformarsi al loro ruolo in quanto donne. I fatti dell'anatomia della donna e della risposta sessuale ci raccontano una storia diversa. C'è solo un'area di acme sessuale, anche se ci sono molte aree di sollecitazione sessuale. Quell'area è la clitoride. Tutti gli orgasmi sono derivazioni di sensazione da quest'area. Poiché la clitoride necessariamente non viene stimolata in misura sufficiente nelle posizioni sessuali convenzionali, noi rimaniamo frigide. A parte la stimolazione fisica, che costituisce la causa comune di orgasmo per la maggior parte delle persone, esiste anche la stimolazione tramite processi primariamente mentali. Alcune donne, per esempio, possono raggiungere l'orgasmo per mezzo di fantasie sessuali o di feticci. Tuttavia, mentre la stimolazione può essere psicologica, l'orgasmo si manifesta fisicamente. L'esperienza dell'orgasmo può anche differire in grado di intensità, alcuni più localizzati, altri più diffusi, ma sono tutti orgasmi clitoridei. Tutto ciò conduce ad alcune interessanti riflessioni intorno al sesso convenzionale e al nostro ruolo in esso. Gli uomini hanno orgasmi essenzialmente tramite sfregamento con la vagina, non con l'area clitoridea, che è esterna e non in grado di produrre frizione alla maniera in cui la produce la penetrazione. Le donne sono state pertanto definite sessualmente nei termini di ciò che piace agli uomini. La nostra biologia non è stata analizzata appropriatamente. Al contrario, siamo state nutrite col mito della donna liberata e del suo orgasmo vaginale, un orgasmo che di fatto non esiste. Quel che dobbiamo fare è ridefinire la nostra sessualità. Dobbiamo abbandonare i concetti normali di sesso e creare nuove direttive che prendano in esame il godimento sessuale reciproco. Dobbiamo cominciare a chiedere che se certe posizioni sessuali ora definite come standard non portano a un orgasmo reciproco, non siano più definite come standard. Nuove tecniche devono essere adottate o inventate che trasformino questo aspetto particolare del nostro abituale sfruttamento sessuale. Uno degli elementi dello sciovinismo maschile è il rifiuto o l'incapacità di vedere le donne come esseri umani totali, separati. Piuttosto, gli uomini hanno scelto di definire le donne esclusivamente nei termini di come beneficano le vite degli uomini. Sessualmente, una donna non è stata considerata come un individuo che vuole condividere l'atto sessuale in maniera uguale, non più di come è stata considerata come una persona con desideri indipendenti quando faceva qualcosa di diverso nella società. La società è stata una funzione degli interessi maschili e le donne non erano organizzate neppure per elaborare un'opposizione verbale agli esperti maschi. Gli uomini temono di diventare sessualmente superflui se la clitoride viene sostituita alla vagina come centro di piacere per le donne e in effetti questa condizione appare molto valida se si considera soltanto l'anatomia. La posizione del pene dentro la vagina, mentre è perfetta per la riproduzione, non stimola necessariamente un orgasmo nelle donne perché la clitoride è collocata all'esterno e più in alto. Le donne, nella posizione normale, devono confidare in una stimolazione indiretta. La sessualità lesbica potrebbe costituire un caso eccellente, basato su dati anatomici di esclusione dell'orgasmo maschile. A parte le ragioni strettamente anatomiche per le quali le donne potrebbero cercare altre donne come amanti, vi è un timore da parte degli uomini che le donne cercheranno la compagnia di altre donne su una base piena, umana. Lo stabilirsi dell'orgasmo clitorideo come fatto minaccerebbe l'istituzione eterosessuale. Esso infatti starebbe a indicare che il piacere sessuale è ottenibile sia da uomini sia da donne, rendendo così l'eterosessualità non un assoluto ma un'opzione. Esso in tal modo porterebbe l'intera questione delle relazioni sessuali umane al di là dei confini dell'attuale sistema di ruoli maschile-femminile. Ancoet, l'orgasmo vaginale è un mito maschilista, 1970. Thank you. I say, brother, how much time do you have? Brother, how much time do you have? Say, I've got 5 long years sitting there, baby, you're never wasting time. And I know, and one day I said I got 99 years to go, and I just wanna tell you it's one day. Sitting in jail ain't nothing but the waste of your time. Thank you. because my baby loved me. You know I love my baby because he told me he loved me. Allora, alle 15:44 come... Sit down on me, ma. Come here, pretty baby. I want everybody to know what you mean to me. E allora alle 15:44 Abbiamo adesso un'intervista, intervista di Eretica Blogger, che racconta della connessione praticamente tra DDL sul femminicidio, sponsorizzato un po' da tutti i politicanti di turni come un decreto che appunto tutela la libertà del genere femminile, con in realtà la repressione che questo DDL comunque ulteriormente scatena in realtà contro le donne, non riconoscendo loro il diritto all'autodeterminazione, e quindi vediamo, ascoltiamo questa intervista. Come annunciato, torniamo in diretta con la Trinacria. In questo caso siamo con Eretica, blogger, la seguiamo su Twitter. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. No, ma ridi, ma noi molto spesso ci siamo quasi affezionati. Qui dal Veneto ci colleghiamo con la terra di Sicilia. Perché siete molto attivi, bisogna dire. Sono contenta. Allora, come avevamo annunciato, perché noi avevamo già sentito Nicoletta Dosio per vedere i pacchetti avvelenati che erano stati inseriti nella legge sul femminicidio contro le lotte sociali, ma ci eravamo ripromessi di approfondire un po' anche, soprattutto dal punto di vista culturale, questa legge che come tag ha funzionato benissimo, però qualche sospetto da questo governo di Avatar c'è venuto. Cosa ci puoi dire tu di questa legge? Ma intanto la legge nasce, come dicevi tu, in un governo, in un contesto comunque politico, governativo, che ha piazzato lì intanto alcune figure chiave che sono buone solo per fare, diciamo, per rappresentare delle cause buone, cause identitarie, che regalano al governo una sorta di legittimità morale. Loro sono quelli che parlano bene di donne, sono quelli che si preoccupano degli immigrati, salvo poi non fare un solo provvedimento che sia utile in una direzione o nell'altra. In particolare in relazione alle donne, in relazione alla questione della violenza sulle donne, l'andazzo, diciamo, è stato il seguente. All'inizio c'era con la ministra Idem, cioè loro avevano tentato di iniziare una serie di interlocuzioni soprattutto con le associazioni che si occupano di violenza sulle donne, quindi tentando di capire a partire dalla società civile, da chi se ne occupa, di cosa più o meno c'era bisogno, cosa le donne chiedevano. In realtà poi la Idem andò via e nominarono come consulente alla violenza di genere Isabella Rauti. Isabella Rauti è la nominata perché si occupa di violenza sulle donne, dalla sua parte ha partecipato a uno di questi balletti trasversali bipartisan che si chiamava One Billion Rising ed è stata nominata dal ministro Alfano proprio per fare la consulente, perché lei sì che ce la fa, cioè lei sì che sa quello che vogliono le donne, e lei, e lo sa anche Alfano, che disse da subito qual era più o meno la linea politica da seguire, e lo disse anche la Cancellieri. Dissero dunque che noi avevamo bisogno dei braccialetti elettronici, perché non sapevano dove piazzarli prima, insomma era un bel business da piazzare, bisognava in qualche modo collocarla sta roba, milioni e milioni di spesa che non si capisce a che cosa servono. Alfano disse subito che ci voleva la linea dura e bisognava immediatamente fare delle azioni forti, bisognava sferrare un attacco mortale contro la strage delle donne, contro il femminicidio. Letta si giocò il brand femminicidio anche lui per colorarsi di buono e di moralmente, diciamo, legittimabile, e disse che noi donne siamo il soggetto debole, quindi in sostanza hanno deciso loro patriarchi che noi avevamo bisogno di protezione, e servivano loro, insomma, a dirci queste cose. Bastava un qualunque tappa all'angolo della strada che si occupa di prostitute a raccontare più o meno la stessa visione, diciamo, degli eventi. Sì, tra l'altro, anche l'idea del braccialetto ricorda molto quello del pappone per strada, nel braccialetto per seguire le donne. Sì, no, ma poi il braccialetto, diciamo, è una parentesi umoristica all'interno di tutta la parentesi umoristica, che poi tanto umoristica non è, perché tu devi misurare tutto questo all'interno di un contesto in cui si fanno i decreti svuota carceri. Quindi loro intanto inventano nuovi reati per infilare gente in carcere, e però dicono: siccome non ci possiamo mandare troppa gente in carcere, allora ci servono i braccialetti elettronici, perché così incarceriamo la gente in giro per le strade, in casa, no? Con tutti questi braccialetti. Quindi tu vedrai una serie di persone che sono denunciate, cioè c'è l'arresto preventivo a questo punto, perché loro la misura, diciamo, che propongono è quella di aggravare la questione dell'arresto preventivo, la carcerazione preventiva, quindi tanta gente in attesa di processo con che sarà gli arresti domiciliari eccetera eccetera con questi braccialetti, e tanto dovrebbe bastare per risolverci a noi tutti i problemi della vita. Vuoi che continui su questa scia? Riprendiamo quella sul questo provvedimento di patriarcale, di benevolenza verso le povere donne indifese che hanno bisogno di protezione. Sì, no, noi appunto siamo soggetto debole, soggetto povere, indifese, non ci hanno proprio ascoltato nessuno, cioè perché tra collettivi femministi, associazioni più o meno extra, in, dentro le istituzioni, fuori dalle istituzioni, tutte quante abbiamo detto che faceva schifo tutto quello che loro proponevano e che avevamo un'altra idea di risoluzione di questa questione. Non hanno ascoltato le donne, hanno fatto una legge in nome delle donne e hanno fatto una legge per impedire alle stesse donne di fare degli errori, delle stronzate, perché a quanto pare dobbiamo essere salvate anche da noi stesse. Hanno inserito all'interno di questo bel pacchetto una roba che è l'irrevocabilità della querela, significa che se tu, insomma, un bel giorno sulla scia di, non so, insomma, cioè, sì, o sei menata, o c'è una grossa litigata, o quel che è, vai a denunciare, se poi vuoi, se hai risolto in un altro modo, se vuoi risolvere in un altro modo, se non vuoi in qualche modo, insomma, portare avanti quella diatriba dal punto di vista legale e invece, insomma, vuoi fare altro, vuoi revocare la querela senza tener conto di tutti i disagi, dei pro e contro, di tutta la fragilità che c'è in questi contesti, in queste situazioni, di quanto sia grave, diciamo, in alcuni momenti opprimere la persona che subisce violenza, inserirsi condizionando quel contesto e quelle decisioni in maniera autoritaria, insomma, senza preoccuparsi di tutte le conseguenze che chi si occupa di violenza conosce bene. In questi casi hanno deciso che la querela deve essere irrevocabile. All'inizio alcune erano riuscite con alcuni emendamenti a fare in modo che diventasse quantomeno revocabile per i casi meno gravi, però doveva presentarsi dal giudice, quindi io querelo, poi voglio ritirare la querela, devo andare da un giudice, sarei dovuta andare da un giudice a giustificare il fatto che voglio revocare la querela. Che un po', diciamo, tanto per farti capire, è un po' la stessa cosa che si chiedeva alle donne che volevano abortire tanto tempo fa. Questa è una cosa, insomma, di una faccenda vecchia, di dibattiti vecchi relativamente alla questione dell'aborto, cioè dove la donna deve giustificare la sua libera scelta davanti a un giudice e possibilmente anche davanti a uno psichiatra che stabilisce se la sua richiesta sia effettivamente legittima oppure no. Perciò, cioè, nello stesso momento in cui io sono in giudizio ed è in giudizio la mia scelta, si stabilisce se io sono sana di mente, se la mia decisione è plausibile. Poi invece la Cassazione ha deciso che non va bene neanche questo, e che quindi la querela resta irrevocabile sempre, perciò le donne in qualche modo non sono, si è stabilito per legge che non sono in grado di intendere e volere e non sono in grado di autogestirsi queste situazioni e di scegliere i percorsi che più preferisco. La cosa che si è fatta sostanzialmente, così come ho scritto e così come sosteniamo in tante, è quella di stabilire che c'è un tutore, un padre protettore, un padre padrone che ci protegge, ci tutela e ci controlla. E questo è dal punto di vista dell'analisi femminista, dal punto di vista dell'analisi sulla questione della violenza sulle donne, è un passo indietro enorme. Ed è coerente comunque con tutto il piano, diciamo, del decreto sicurezza, perché tutto il piglio del decreto sicurezza è di stampo patriarcale, cioè è securitario, è repressivo. Lo stesso termine che usano e che hanno e che si sono rivendicate le donne del PD, che hanno molto molto sollecitato anche questo genere di interventi, a loro piace molto questa cosa di essere messe in sicurezza, è proprio quella, loro si sono rivendicati il fatto di averci messe in sicurezza, come se noi fossimo un buco, un burrone, un cantiere di lavoro, una roba così, ci hanno recintato a dovere militarmente. Questa è la loro idea di risoluzione della violenza sulle donne. C'è una cosa che volevo chiederti, ciao, sono Michelino, che nel nuovo decreto viene inasprito, secondo insomma quanto scritto nelle norme, la pena per la violenza tramite cellulare, tramite internet, tramite i social network. Quindi se tu tartassi una persona attraverso insomma i media, fondamentalmente vieni punito di più addirittura rispetto al fatto che una persona ti pedini oppure ti aspetti sotto casa. Nel senso, viene alla fin fine privilegiato, cioè viene punita maggiormente, secondo questo decreto, una violenza attraverso strumenti che comunque agiscono da una certa distanza, piuttosto che la violenza fisica immediata. E tutto questo, tra l'altro, contrasta un po' anche con una situazione oggettiva, dal mio punto di vista, che in cui vivono le donne nella società normale, cioè nella vita reale, che è quella del piano differente che hanno le donne rispetto agli uomini nel mondo del lavoro o nella società normale, cioè tutto quello che riguarda la posizione di una donna nell'inserimento nel mondo del lavoro, nella situazione lavorativa, nel momento della maternità e tutto il resto, da questo decreto non viene minimamente toccato, come se non fosse assolutamente un problema che invece le donne sentono sulla loro pelle costantemente tutti i giorni. Ah, ma sì, certo, cioè, io ti dico anche di più, il decreto è puntato alla protezione di madri, mogli e donne incinte, e questo lo dice chiaramente, con un accenno minimo alle migranti, che saranno sempre madri, mogli, donne incinte, alle quali si concede, ed è una cosa aberrante anche quella, la possibilità di ottenere permesso di soggiorno se sono massacrate a sufficienza, cioè se ci vai lì in questura con tantissimi lividi, ti sei quasi fatta uccidere, allora forse ti daranno il permesso di soggiorno, che è un baratto un po' orribile di per sé, anche dal punto di vista concettuale, culturale, oltre che pratico. Ma il decreto è proprio puntato alla protezione di una certa figura di donna, del suo ruolo riproduttivo, e del ruolo di cura delle donne che devono lavorare, che quindi non sono per niente inserite nel mercato del lavoro, quindi di uno dei possibili piani preventivi anche per l'emancipazione delle donne, per renderci indipendenti da qualunque uomo che poi ci vuol menare, perché se non c'hai i soldi e te ne vuoi andare da una casa dove c'è l'uomo che ti mantiene, è chiaro che non farai una bella fine, dovrai sempre dipendere da qualcuno. E questo non è minimamente contemplato. I piani, infatti, cioè la visione, diciamo, da questo punto di vista del governo non è minimamente schizofrenica, è assolutamente coerente. Loro fanno un welfare in cui alle donne, che per le donne si stabilisce una conciliazione lavoro-famiglia, il che si intende che ci ficcano sempre più dentro casa, perché la famiglia per noi è importante, perché non possiamo essere altro che madri e mogli, senza mai pensare al fatto che i ruoli di cura vanno condivisi all'interno del nucleo familiare anche col padre, con la persona insomma con cui stai, con l'altra compagna, col tuo compagno, chiunque sia. In realtà sei sempre tu che devi avere questo carico, lo Stato ti ringrazia, ti riconosce questo merito, ti condanna a rimanere in casa, non pianifica minimamente niente che possa riguardare la questione del lavoro, anzi attraverso questo genere di speculazioni argomentative si legittima a maggior ragione la flessibilità, si precarizza ancora di più il mercato del lavoro, che poi ovviamente non è una cosa che subiamo solo noi, ma la subiscono tutti. Quindi io ti posso dire che in nome delle donne i governi sostanzialmente fanno delle porcate allucinanti e le fanno tutte secondo il loro punto di vista per farci un gran favore. Sì, infatti anche magari stavi allargando giustamente adesso anche lo sguardo, perché poi la filosofia che sta sotto questa legge è quella che troviamo sempre più applicata nei luoghi di lavoro. È successo adesso qua a Padova, le operatrici domiciliari sono state fornite di un moderno cellulare con GPS dove viene tracciato dove sono, e quando arrivano nella casa devono passare un badge dentro al cellulare per segnalare che sono in quel punto. Quindi è una filosofia che sta invadendo tutta la nostra società, che ricorda da vicino i campi di concentramento alla fine. Sì, noi infatti siamo tutti i soggetti di lavoro, sono sorvegliati in generale, cioè, e devono adempiere alle mansioni così come è stabilito. Le donne vengono tutelate in quanto che sono risorse del welfare produttivo familiare. non altro che questo, cioè loro delle migranti in sé, delle prostitute per esempio, delle donne lesbiche, delle donne che non compiono un lavoro che è utile al liberismo, è utile al sistema produttivo capitalista, a tutta questa roba qui non gliene frega assolutamente niente, e siccome ti tutelano ma ti sorvegliano anche, sorvegliano te, sorvegliano il tuo aguzzino, cioè colui il quale deve assicurarsi che tu faccia bene quello che devi fare e lui deve far bene quello che deve far lui, quindi siamo un po' tutti incastrati in ruoli di genere e tutti quanti controllati in un modo o nell'altro. Va bene, noi ti ringraziamo per questo contributo, speriamo, contiamo di sentirci ancora. Non credere, qui siamo tre maschi oggi a trasmettere, ma abbiamo quattro col tecnico. Quattro col tecnico che è la figura oscura dello studio, molto ombroso in tutti i sensi. Però abbiamo anche una grossa, siamo misti, però e viviamo tutti i problemi. Un contributo di donne e di compagni all'interno della radio che contribuisce alla forza di radiazione. E quindi si potrà sicuramente allargare il discorso. Va benissimo, va benissimo. Ma il punto di vista di genere è anche il vostro, non è solo quello nostro. Cioè questa questione vi riguarda. Ah, guarda, non in termini di responsabilizzazione, cioè vi riguarda in termini proprio di controllo sociale, di controllo dei ruoli di genere, perché a noi questo, a noi ci fanno far figli i ruoli di cura, a voi faranno fare altre cose che sono altrettanto costrittive, inserendovi all'interno del mercato economico, alle loro condizioni, eccetera. Cioè anche voi siete obbligati a far figli, a comprarvi la casa, a fare i mariti, a fare determinate cose, insomma, seguendo determinate regole. La lotta per l'emancipazione della donna fa parte, una parte che è una condizione sine qua non per ottenere poi un cambiamento della società radicale attuale, senza quello non, di sicuro non si può pensare di riuscire a cambiare questa società, di costruirne una diversa. Certo. Va bene, noi ti ringraziamo e sicuramente a risentirci prossimamente. Grazie a voi. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie. Ciao. Adesso metto su Viola Valentino come musica mentre aspettiamo la prossima telefonata. E allora, 16:01, andiamo col pezzo, poi fra pochissimo Daniele Barbieri e le sue scordate. Ciao! Questa non è Viola Valentino, ma è Big Mama Thornton. E questa è Radio Default. E vi lasciamo con un po' di musica e a breve, anzi subito, con un live. Un live di una nostra amica e compagna francese, Masha, che abbiamo registrato qui a Radio Default qualche sera fa. Come. myself. I want you to tell everyone I know that you, my love, I can't hide. Yeah, baby, love I need, you have it to share. And the love you got, baby, I'll keep it here for me. E lei è Masha Monkey Family. Allora facciamo una rettifica in diretta grazie alla nostra regia esterna che puntualmente ci corregge. E Masha era l'unica non francese dei quattro francesi che ci sono venuti a trovare qui in radio la sera scorsa, bensì è olandese. Ciao Masha, salutiamo Masha. Masha, cittadina del mondo. Parliamo ancora del DDL femminicidio e leggiamo uno stralcio di un'intervista rilasciata da Carla Centioni, che è la responsabile del centro di accoglienza per donne e minori di Valmontone. Rispetto a questa legge, la Centioni dice: la donna non è tutelata. Se non si stanziano fondi sufficienti per aprire centri antiviolenza, penso che non c'è una volontà politica di risolvere il problema. Inoltre, un altro punto che ci trova in disaccordo è non aver dato alla donna la possibilità di revocare la denuncia, quello che ci diceva l'altra ragazza siciliana nell'intervista di prima. La legge la pone nuovamente nell'impossibilità di autodeterminarsi. È doveroso chiedersi perché le donne non denunciano, oppure dopo qualche tempo revocano la denuncia o tornano con l'uomo violento. Le donne costrette a fuggire dalla casa coniugale hanno bisogno di un sostegno, invece aspettano anche 5 anni per la prima udienza in tribunale. Manca una legge regionale che prevede la semiautonomia, per cui una volta uscite dai centri di accoglienza, dove hanno trascorso 5 mesi, devono affrontare da sole lavoro, casa e figli. La necessità, dunque, è sottolineata attraverso la proposta di legge dal consigliere Lupi, è di sottoscrivere protocolli con procedure scritte che coinvolgano consultori, associazioni e centri antiviolenza. Però rimane il fatto che spesso questi centri antiviolenza vengono chiusi per mancanza di fondi, la stessa cosa vale ovviamente per i consultori, quindi a difendere la donna rimane solo la repressione, il carcere duro per i violenti, ma non vengono minimamente considerate appunto tutte quelle forme di sostegno alla donna, sostegno abitativo, sostegno lavorativo, che le permetterebbero realmente, diciamo, di fuggire dalla sua situazione comunque di violenza domestica. Continua la Centioni dicendo: a mio parere sia la legge nazionale sia quelle regionali sono leggi di principio che mettono d'accordo tutti, ma che rimangono vaghe se consideriamo che per mancanza di fondi il centro antiviolenza di Viterbo è chiuso, il centro di Latina rischia di chiudere e il centro La Ginestra di Valmontone non si sa che fine farà. I want to be a part of the world. E a proposito di falsi ipocriti decreti sul femminicidio, leggiamo un estratto di un comunicato scritto da alcune compagne a seguito dello stupro ai danni di una ragazza cubana che si trovava agli arresti domiciliari a San Basilio. Da poco sono arrivate delle condanne anche nei confronti di un ispettore capo per uno stupro nel commissariato stesso di San Basilio ai danni di una ragazza appena diciottenne. E gli stessi che dicevano la voglio violentare sono Sandro Contrada, Alessandro Stronati e Massimo Serra. Sono le stesse guardie che ogni giorno spadroneggiano all'interno dei quartieri, arrivano allo stupro, all'omicidio. Non ci può essere indifferenza di fronte a chi, autorizzato dalla divisa, sceglie di fare ciò che vuole sui nostri corpi e delle nostre vite. Nelle strade, nelle questure, nelle galere, nei CIE, la polizia stupra, tortura, uccide. Annunciamo che la Perigiova è stato vinto da Emiliano, che ha trovato un un'intrusa nelle foto. Adesso metteremo una traccia di Natasha Atlas, una cantante belga che fa musica araba etno-elettronica. Vai, chica! On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Voilà Dieu qui m'a fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais que hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses. Ce matin, la lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu éblouissant et nu son âme qui dansait bien au-delà de nuit et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Yeah.

ora in onda il mini telegiornale di Femministenzia. La vagina ha alcuni fatti. Nel 1593, nel corso di un processo per stregoneria, l'avvocato che conduceva le indagini, un uomo sposato, scoprì a quanto pare per la prima volta la clitoride. L'identificò come un capezzolo del diavolo, prova certa della colpevolezza della strega. Era un piccolo pezzetto di carne protuberante a guisa di capezzolo della lunghezza di un centimetro e mezzo. Che il carceriere, percepitelo al primo sguardo, non intendeva svelare, perché esso era adiacente a un luogo talmente segreto che non era conveniente avvedersi. Tuttavia, alla fine, non volendolo nascondere un particolare così strano, lo mostrò ad alcuni degli astanti. I presenti non avevano mai visto niente del genere. La strega fu condannata. La vagina ha altri fatti. Nell'Ottocento le ragazze che imparavano a raggiungere l'orgasmo con la masturbazione erano considerate casi clinici. Spesso venivano curate o corrette con l'amputazione o la cauterizzazione della clitoride o con cinture di castità in miniatura, ottenute cucendo insieme le labbra vulvari per rendere inaccessibile la clitoride e persino con la castrazione, che veniva rimuovendo chirurgicamente le ovaie. Ma nella letteratura medica non c'è alcun riferimento all'esportazione dei testicoli o all'amputazione del pene per impedire ai ragazzi di masturbarsi. Negli Stati Uniti l'ultima clitoridectomia per curare la masturbazione di cui si ha testimonianza è stata eseguita nel 1948 su una bambina di 5 anni. e sfumiamo per Xy, Xy in the mix, Bad Girls Raving Blues. Nota DJ dell'underground nostrana, Xy in the mix. Arrivano le correzioni dalla regia esterna. Nostrana, dato che siamo cittadine e cittadini del mondo, Xy in the mix è londinese. We'll be right back. Ciao Laura, un saluto da tutte noi, ciao. E volevamo dare un appuntamento per questo giovedì 31 ottobre a Laurentino 38 Squat, The Ribellule Horror Picture Show. Le Ribellule, in collaborazione con la trattoria vegan al pezzo d'aglio, presentano serata a tema Rocky Horror a sostegno del collettivo femminista Le Ribellule. Dalle 20:30 cena di alta cucina vegana, DJ set horror glam rock by Big Mama Zimona, performance tratte dal musical del Rocky Horror Picture Show, strega di mezzanotte e racconti dell'orrore, dress code obbligatorio. Giovedì 31 ottobre, tutti alle 38 squat per la serata del collettivo femminista Le Ribellule. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire Milord et prenez bien. E un ringraziamento arriva dalla regia esterna, grazie Giovanni per aver lavato tutti i piatti. Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle! J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, milord, souriez-moi, milord, mieux que ça, un petit effort, voilà c'est ça. Allez riez, milord, allez chanter, milord. Ta da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Sitting on trains, every stop I get to unclock. pyramid system, pirate skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs, running when we hit them, lethal poison for the system, no one on the corner has swagger like us, hit me on my banner prepaid wireless, we pack and deliver like UPS trucks, already going hell just pumping that gas, no one on the corner has swagger like us, hit me on my banner prepaid wireless, we pack and deliver like UPS trucks, already going hell just pumping that gas. Third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Espandendoci dalle Alpi alle Ande, abbiamo fatto qualche intervista in giro così per il mondo e abbiamo chiesto alle donne: se la tua vagina potesse parlare, cosa direbbe in due parole? Va più piano. Sei tu? Ho voglia. Nutrimi. Buono. Oh sì. Ricomincia. No, lì no. Leccami. Resta a casa. Scelta coraggiosa, ripensaci. Ancora, per favore. Abbracciami. Giochiamo? Non smettere. Ancora? Ancora. Ti ricordi di me? Vieni dentro. Non ancora. Wow. Sì. Sì. Cullami. Entra, a tuo rischio e pericolo. Oddio. Grazie a Dio. Sono qui? Andiamo. Trovami. Grazie. Bonjour. Troppo duro. Non mollare. Dov'è Brian? Così va meglio. Sì? Lì? Lì? Quando c'è il sole quel manto d'oro per tutto il mondo te verrà una festa. Lì ragazzini giocherò tra loro, le madri se li stanno a rimirar. Tanta tranquillità fa male appena spunta la prima stella e cambia scena. Là sotto la riberi nel lungo Tevere le coppie filano, gli schiaffi volano, se non sei pratico da reggi moccoli per lungo Tevere non c'è passare. Io la ricordo sempre a San Lumino con i lampioni a gas della orta, e davi quattro soldi a un ragazzino de corsa della nave a smorzare. Ma quelli vostri poco illuminati de prima sera già so accaparati. Là sotto la riberi de lungo Tevere le coppie filano, gli schiaffi volano, se non sei pratico da reggi moccoli per lungo Tevere non c'è passare. Là sotto l'alberi de lungo Tevere le coppie filano, li baci scrocchiano, se non sei pratico de reggi moccoli per lungo Tevere non c'è passare. da sopravvivere non mi basta, leggiamo un report di Pancia. Sabato 19 ottobre ero a Roma. Vi voglio raccontare la mia esperienza nell'unico modo che conosco, quello di Pancia. Non ci saranno grandi riflessioni di cui non sono capace, ma che vi consiglio di leggere o ascoltare perché sono indispensabili per comprendere quanto importante sia ciò che sta accadendo. Mi limito a raccontarvi le mie emozioni, quello che ho provato, quello che mi porto dietro. Ciò che mi ha spinto a partecipare a questa manifestazione è che sono una delle tante che lavora a nero e che viene sottopagata, un euro a ora è quanto mi viene concesso. Ho partecipato perché reputo giusto lottare per il diritto alla casa, per la difesa dei propri territori dalla devastazione e dalla speculazione, per un sapere libero e un reddito per tutti e tutte. Parto con un bus di compagni e compagne e quando arriviamo a Roma, non ricordo precisamente a che altezza dell'autostrada, i nostri pullman vengono fatti fermare da alcune pattuglie della polizia e scortati in una stazione di servizio. Ci fanno scendere e noi non capiamo a quale scopo. C'è chi rivendica il diritto a manifestare, chi ricorda che quel diritto ce lo siamo garantiti con la lotta, che non ci possiamo impedire di arrivare, non ci possono impedire di arrivare a Roma, che questo è terrorismo psicologico. Personalmente posso dirvi che è la prima volta che mi succede, la prima volta che vengo fermata perché voglio manifestare. Questo è un segno sul quale bisognerebbe riflettere per capire che quando si dice che il livello di repressione sta aumentando, non si sta usando un modo di dire, ma che è vero. Una realtà che fin quando non la vivi sulla tua pelle, non la comprendi appieno. Dopo un po', forse una mezz'oretta, ci lasciano andare perché eravamo numericamente superiori a loro. Arriviamo a Roma e lì ci sono davvero tanti spezzoni, tante realtà, quella delle migranti, dei non-MUOS, dei NOTAV, dei movimenti per la lotta alla casa, quelli di studentesse e studenti precari e precari e tanto altro. Non avevo mai visto tutti questi movimenti riuniti in un'unica piazza e soprattutto in quella di San Giovanni dove è accaduto ciò che ricordiamo tutti. Parte il corteo e si sentono gli slogan, i discorsi dalle casse, penso che è tutto giusto, che il domani deve essere nelle nostre mani, che il futuro ce l'hanno scippato e dobbiamo riprendercelo. Si balla, si scherza, si incontrano persone che non vedi da un po', si scambiano chiacchiere, si progettano cose insieme, al Ministero della Finanza. Non avevo avuto notizie sugli scontri avvenuti nella prossimità della sede di Casa Pound, ma leggendo ho capito che la storia si ripete. I fasci scortati dai poliziotti e i compagni e le compagne che ribadiscono ciò che dovrebbe essere sacrosanto, ovvero che la lotta al fascismo non si è conclusa e che noi siamo e saremo sempre antifascisti e antifasciste. Davanti al ministero vedo solo la rabbia di chi non ce la fa più e la polizia che si prepara a caricare per difendere il vero violento, lo Stato. In quel momento ho paura, afferro le mani di una compagna, lo zaino di un'altra e iniziamo ad allontanarci in fretta. Poi ci arrivano le urla di chi dice che stanno caricando, che bisogna scappare. Corri, corri, cerchi di non perdere le compagne, la mano di una mi sfugge, mi giro di scatto, ho paura di perderla e perdere le altre. L'afferro in uno scatto furioso e raggiungiamo le altre. Ci fermiamo perché non sappiamo dove andare, quella città non la conosciamo bene. Il tempo per capire è poco, presto veniamo raggiunte da un altro gruppo di persone in fuga che urlano scappate, caricano. E allora tu afferri chi puoi e scappi e chiami a squarciagola chi non vedi. Nessuno e nessuno dovrebbe restare indietro, ma alcuni li perdiamo. Partono telefonate, tu come stai, dove stai, io sto qui, e lì che si dice, hai avuto notizie di tizio, di tizia, eccetera. Una compagna sta male perché soffre d'asma, ma sai che non puoi fermarti, devi scappare e arrivare ad un punto tranquillo, ma devi prima capire dov'è. Quindi provi a farle coraggio, anche se hai paura tu stessa, altre compagne ti sostengono. È un aiuto, collaborazione che mi ha commosso, che non so spiegarvi a parole, ma che dimostra la bellezza che c'è tra le compagne e le compagne. Arrivano notizie che a Porta Pia si può andare, che la situazione è calma, ma alcune persone che incontriamo per strada ci dicono il contrario. Decidiamo di andarci lo stesso. La situazione è calma, ma in un modo angosciante, almeno per me. Tutte le strade, quattro se non sbaglio, che confluiscono nella piazza, sono bloccate da blindati o poliziotti schierati in assetto antisommossa. Io non me la sento di restare ad accamparmi qui, quindi cerco di capire come raggiungere i pullman. Se non avessi avuto l'aiuto delle compagne che mi hanno indicato un gruppo che si dirigeva proprio dove volevo andare, io, non ci sarei riuscita. Saluto la compagna che mi ha indicato il gruppo, lo scambio di un sorriso veloce tra chi va e chi resta e poi via. Mentre mi incammino continuo a ringraziare le sorelle, amiche, compagne per non aver lasciato nessuna indietro e per aver trovato soluzioni per tutte. riparto verso il pullman, verso casa. Un ringraziamento anche a un compagno romano che mi stava raggiungendo per aiutarmi e che io ho mollato lì perché dovevo raggiungere il gruppo di cui parlavo sopra. Anche il suo aiuto non dimenticherò. In questa giornata, più di tutte quelle altre che ho vissuto, ho avuto paura della violenza della polizia, della repressione che stavano organizzando, perché quello che sta accadendo gli fa paura. In questa giornata ho capito che avere paura è normale, ma che se non ci fossero le compagne non avrei saputo gestire la situazione. Ho capito cosa significa sorellanza e le ringrazio dal profondo del mio cuore. Le ringrazio per avermi tenuto la mano mentre si correva, per avermi mantenuta mentre stavo per cadere, evitandomi di essere travolta dalla folla, per avermi tranquillizzata e per esserci state. Le cariche fanno paura a tutti e tutte, ma insieme che si supera la paura, il potere, la sua manifestazione, la sua violenza, la sua arroganza ti fanno cagare sotto. Non posso negarlo, ma con loro accanto non mi sono sentita sola e ho resistito finché ho potuto. I miei problemi con la gestione del panico non mi aiutano, ma sono contenta di esserci stata, di aver manifestato quando hanno fatto l'impossibile per impedircelo, perché so che da questi giorni può uscire qualcosa che può generare il cambiamento che desidero e che so essere raggiungibile solo con la lotta, la resistenza. Nel pacifismo non ci credo, non ci ho mai creduto, non sono un'eroina, io mi cago sotto dalla paura, ma la violenza che subiamo ogni giorno è più forte e se restiamo insieme, se impediamo di dividerci, possiamo farcela. È questo quello che ho capito ieri. In ultima battuta, non perché sia meno importante, vorrei dare la mia solidarietà ai compagni e alle compagne fermati ieri e che oggi sono liberi. All'arenella più sale il fiume, più galla, io più ve guardo e più ve fate bella, come te posso amare. Qualcheduno la dà. C'ha le scarpe rotte, la risola, io giallo risolate, stamattina, sierpava me donasse tutta Roma. Se la sanna chi t'ama, e me dicesse la sanna chi t'ama, io gli direbbe no. Sarvamo Roma, qualcheduno la dà. Ma che ci vuoi insegnare a Bibbia a noi? La me- questa la detta cantata! La mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori. Via canto! Malla, mamma Roma! Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino sta compagnia. A Carmine, batte da te che sta forte ancora. Fatto nero, Carmine. Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna. E invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta. Fior de cucuzza, na donna per sti baffi andava pazza. E adesso che la persi ce va in puzza. Brava Clementina! Fiore de merda, io mi son liberata da una corda, adesso tocca un'altra a fa la serva. La sua sposa, senza invidia, auguri, son libera, so. Sono libera! Auguri, i vittori! Le donne di conforto. Le nostre storie esistono solo dentro le nostre teste, dentro i nostri corpi devastati, dentro un tempo, uno spazio di guerra, il vuoto. Non c'è nessuna traccia sulla carta, niente di ufficiale sui libri, solo la coscienza, soltanto quella. Cosa ci hanno promesso? Che avrei salvato mio padre se fossi andata con loro, che avrei trovato un lavoro, che avrei servito il mio paese, che mi avrebbero ucciso se non ci fossi andata, che era meglio così. Cosa abbiamo trovato? Niente montagne, niente alberi, niente acqua, sabbia gialla, un deserto, un deposito pieno di lacrime, migliaia di ragazze preoccupate, la mia treccia tagliata contro la mia volontà, neanche il tempo di mettersi le mutande. Cosa eravamo costrette a fare? cambiare nome, indossare un vestito intero con un solo bottone facile da aprire. 50 soldati giapponesi al giorno, a volte ce n'erano una nave intera. Strane cose barbariche. Farlo anche quando abbiamo le mestruazioni, farlo da giovanissime, prima di cominciare ad averle. Erano così tanti. Certi non si spogliavano neanche, tirano fuori il pene e basta. Tanti di quegli uomini che non riuscivo a camminare, non riuscivo ad allungare le gambe, non riuscivo a piegarmi, non riuscivo. Cosa ci hanno fatto mille volte? Insultato, sculacciato, stortato, fatto sanguinare dentro e fuori, sterilizzato, drogato, preso a schiaffi, preso a pugni. Cosa abbiamo visto? Una ragazza bere prodotti chimici in bagno, una ragazza uccisa da una bomba, una ragazza picchiata selvaggiamente con un fucile, una ragazza lanciata a testa bassa contro un muro, il corpo devastato di una ragazza scarnificato in un fiume da affogare. Cosa ci lasciavano fare? Cosa non ci lasciavano fare? Lavarci, andare in giro, andare dal dottore, usare il preservativo, scappare, tenere il mio bambino, chiedergli di smettere. Cosa abbiamo avuto? Malaria, sifilide, gonorrea, bambini nati morti, tubercolosi, malattie dei cuori, esaurimenti nervosi, ipocondria. Cosa ci davano da mangiare? Riso, zuppa di miso, rape sott'aceto e riso, zuppa di miso, rape sott'aceto, riso, riso, riso. Cosa siamo diventate? Rovinate, strumenti, sterili, buchi, sanguinolenti, carne, esiliate, mute, sole. Cosa c'è rimasto? Un padre sconvolto che non si è più ripreso ed è morto. Niente stipendio, cicatrici, odio per gli uomini, niente figli, niente casa, uno spazio dove un tempo c'era un utero, alcol, fumo, senso di colpa, vergogna. Come ci hanno chiamato? Wan Fu, donne di conforto. Yaki Fu, donne di malaffare. Cosa abbiamo provato? Mi trema ancora il petto. Cosa hanno preso? La primavera, la mia vita. Cosa siamo? 74, 79, 84, 93, cieche, lente, pronte, fuori dall'ambasciata giapponese, ogni mercoledì, non più impaurite. Cosa vogliamo? Ora, presto, prima che ce ne andiamo e che le nostre storie lascino questo paese, lascino le nostre teste, che il governo giapponese lo dica, per favore. Ci dispiace, donne di conforto, ditelo a me, ci dispiace, a me, ci dispiace a me, a me, a me, a me, ditelo, diteci dispiace. Diteci dispiace, ditemi, guardatemi, ditemi ci dispiace. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. To care independence. E questa la dedichiamo a Adriano e Gianluca. spreading dirty rumors all around the neighborhood. They say you're mean and evil and don't know what to do. That's the reason that he's gone and left you black and blue. Hey, yeah. Tell me what you gonna do now. They say he's left you all alone to weather this old storm. He's got another woman now hanging on his arm. Yeah, yeah, yeah. That old fool's telling everybody he's sick and tired of you. Hey, Lordy, Lordy, Mama, what are you gonna do? Hey, yeah. Tell me what you're gonna do. Say you left a fuss and fight and bring a good man down and don't know how to treat him when he takes you on the town. They say you ain't behind him and just don't understand and think that you're a woman but acting like a man. Hey, Lordy, Mama, what you gonna do now? Get your nerves together, baby, and set the record straight. Set it straight. Let the whole round world know it wasn't you that caused this bitter fate. All these years you loved him, and he knows it's true. Cause what you want for your man is what he's wanting to. Hey, yeah. Siamo la ciurma nemica d'una galera infame su cui ratta la morte miete per lenta fame. Mai orizzonti limpidi schiude la nostra aurora e sulla tolda squallida urla l'ascolto ignora. I nostri visi involano fra fetide carene, siamo magri smunti schiavi stretti in ferro catene. Sorge sul mar la luna, ruotano le stelle in cielo, ma sulle nostre luci stese in funereo velo. Torme di schiavi adusti, chini a gemer sul remo, spezian queste carene, o chini a remar morremo. Cos'è gementi schiavi, questo remar remare, meglio morir tra i flutti, sul biancheggiar del mare. Remiam finché la nave si schianti sui frangenti, alte le rosso nere fra il sibilar dei venti. E sia pietosa coltrice l'onda spumosa e ria, ma sorda un dì sui martiri il sol dell'anarchia. Su schiave allarmi, allarmi, l'onda gorgoglie sale, tuoni baleni e fulmini sul galeon fatale. Su schiave allarmi, allarmi, puniam col braccio forte, giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Giuriam, giuriam giustizia o libertà o morte. Bravo. Baciami e ti svelerò il segreto, oh. E la trasmissione di Femministenzia vi sta per lasciare, perché qui in radio proietteremo il documentario Do Communists Have Better Sex. Prima di salutarvi faremo un'altra breve introduzione al documentario, una piccola lettura e poi ci saluteremo. E la trasmissione di Femministenzia Castelli Romani su Radio Default tornerà il 5 novembre, martedì 5 novembre alle 21:30. Intanto per seguirci la nostra pagina Facebook è Femministenzia, la pagina Facebook e Twitter della radio è Radio Default, e vi invitiamo a visitare il sito di Radio Default che è www.radiodefault.it, dove all'interno del palinsesto e delle trasmissioni troverete anche Femministenzia. Amigos, que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. La parada. voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo. Soy pescador, vivo en el mar. Ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar. Ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. A la mar fui por naranja, cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. Soy pescador, vivo en el mar. Ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar. Ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Dicen que la mar es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos. Dicen que el mar es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos. Soy pescador, vivo en el mar. La trasmissione di Femministenzia sta per finire, adesso proietteremo Do Communists Have a Better Sex. E il pregio di questo documentario non riguarda tanto le fattezze cinematografiche né una rivendicazione ideologica, ma il modo leggero e ideologico di come la cultura sessuale nella DDR viene narrata e di come essa stessa non sia stato solo uno strumento di conflitto nella guerra fredda, ma anche un reale progetto di emancipazione sociale della donna, scevro dall'oppressione religiosa, quindi in un certo senso anche spontaneo, alla ricerca di una coerenza sul piano dell'uguaglianza dei sessi all'interno di un progetto di giustizia ed uguaglianza sociale. Quindi è interessante sottolineare la laicità dell'approccio alla sessualità nei vari passaggi che la DDR ha fatto, quindi parità di diritti, aborto, pillola, educazione sessuale, il tutto anni e anni prima del settore occidentale, che invece era appesantito dalle retoriche religiose. Dopodiché è impossibile riflettere sul fatto che importante riflettere sul fatto che invece gli omosessuali erano oppressi dal regime e di come lo stesso regime, per cercare di tenere in piedi il muro, abbia prodotto attraverso il suo organo di produzione di Stato, la DEFA, cioè tipo l'Istituto Luce durante il fascismo, il film storico e famosissimo Coming Out sui diritti civili gay nella DDR, una fiction che parla di un giovane professore devoto al regime socialista e di come lui si scopra omosessuale. Questo film fu l'ultimo tentativo da parte del regime di rilanciare come strumento politico una campagna di emancipazione dei diritti. Ma il problema era che ormai era arrivato tardi e non poteva più fare lo stesso gioco che aveva fatto con i diritti della donna. Durante la prima di Coming Out, che si tenne al Kino Babylon nel 1989, l'8 novembre, ovvero il giorno della caduta del muro, la proiezione a un certo punto fu interrotta a metà e fu dato l'annuncio: signori e signore, il muro di Berlino è caduto.